Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. L'atmosfera magica di un concerto, quella particolare alchimia che lega un artista e il suo pubblico quando si esibisce dal vivo, dipende da moltissimi fattori. Uno di questi, forse uno dei più importanti, è sicuramente il luogo in cui il concerto si svolge. Ci sono luoghi veramente magici in grado di trasformare un concerto in un evento memorabile e straordinario. Uno di questi è senza dubbio l'Arena di Verona, il celebre anfiteatro romano situato nel centro storico. Essa non soltanto è un simbolo della città scaligera, ma è anche una straordinaria cornice scenografica che dai primi del Novecento ospita concerti, manifestazioni, spettacoli, rendendoli unici e ineguagliabili. Il 2 e il 3 maggio del 2011, l'Arena di Verona ospita i primi concerti del nuovo tour di uno dei più amati cantautori della musica italiana, Biagio Antonacci. Un tour anomalo per Biagio. Il suo album Inaspettata è uscito da più di un anno, ma nessuna tournée a supporto del disco è stata organizzata. Biagio ha detto di sentirsi svogliato, svuotato. Poi si presenta l'occasione dell'Arena. Come lasciarsela scappare? Così, nei primi giorni di maggio, Antonacci torna sul palco e lo fa con due sold out consecutivi, avvolto dal calore dei suoi fan in un'atmosfera unica. A voi, a tutti, a voi parlo un grazie particolare, davvero per l'affetto di questi anni. Io spero di riuscire a deludervi sempre poco. Il cantautore milanese sceglie per i suoi concerti una scenografia particolare, molto suggestiva, che dà un contributo determinante al clima che si respira. Sono rimasti un po' stupiti all'inizio perché il palco è talmente liscio e piatto, senza niente, che sembra una cosa molto minimalista, no? Poi invece si capisce che quel minimalismo porta a sviluppare un'idea dell'Arena di Verona che è atipica, cioè, perché di solito l'Arena di Verona è coperta da di solito c'è un palco con dietro un frontale. Invece ho voluto liberare tutto questo. Quindi non c'è un palco, ma suoniamo sull'arena. Imponenti giochi di luci, proiezioni mozzafiato sui maxi schermi e poi all'inizio del concerto la fanfara dei bersaglieri che si esibisce e Biagio che entra sul palco cantando uno dei suoi ultimi pezzi con la bandiera italiana tra le mani. Il ritorno sul palco di Antonacci è un successo straordinario. Quel tour proseguirà in maniera trionfale. Biagio, dopo Verona, si esibirà anche al Colosseo a Roma, Piazza San Marco a Venezia, tutte cornici spettacolari. Biagio Antonacci è un cantautore istintivo, un rocker sanguigno, sincero, timbro vocale ruvido e approccio molto diretto. Ha saputo costruirsi negli anni un nutrito gruppo di fan che apprezzano sia la qualità dei suoi lavori in studio, sia il grande coinvolgimento dei suoi concerti. Ma come ha iniziato Biagio? Quali sono stati i suoi magnifici destini? Un percorso lungo, difficile, complesso. In altre parole, l'autentica e proverbiale gavetta. È quello che deve affrontare Biagio Antonacci per giungere al successo. Nasce e cresce a Rozzano, provincia di Milano, che è profondamente lontana dalla Milano che conta, quella della moda, del design, degli aperitivi. In altre parole, la Milano da bere. Papà è pugliese, la mamma milanese. Di questo mio doppio... questa mia doppia appartenenza a un'Italia... questo mio essere uomo del nord, uomo del sud, di questa doppia faccia, questa doppia caratteristica della mia vita, avendo una madre del nord e un padre del sud. Biagio diventa geometra e inizia a lavorare in cantiere. La passione però brucia in un'altra direzione, che è nemmeno a dirlo la musica. Prima la batteria, poi la voce, sempre e comunque il rock. Una passione necessaria, nata molto, molto presto. Tuttora io balbetto un po', no? sono un po' balbuzzente, però ho imparato poi nel tempo a gestire questo mio, non difetto, questo mio modo di esprimermi. Da piccolo capivo che quando cantavo ciò non accadeva. Allora io da ragazzino, quando volevo dire qualcosa, usavo una cantilena che mi aiutava a non tartagliare. Questa cosa qua è servita. Mi ha fatto poi capire che la melodia era collegata al cervello, che la parola era come la musica. Gli anni Ottanta sono un decennio in cui c'è il boom di tante cose e di alcune forse avremmo anche potuto fare a meno. Il boom delle sale prove in affitto e di conseguenza delle infinite band di quartiere, invece, è un fenomeno positivo, suggestivo. L'atmosfera di quelle sale prova di provincia è straordinaria. Il vago odore di muffa e caffè, la moquette, le bacheche piene di annunci stralunati a cui nessuno mai risponde, i suoni ovattati ma non troppo che vengono dalle salette insonorizzate decisamente male, dove gruppi più bravi a sognare e ad atteggiarsi che a suonare distruggono cover di artisti famosi. Biagio nutre così la sua passione per la musica e il suo sogno di successo con la sua piccola band Falchi Junior. Poi, quando siamo diventati un pochino più tra virgolette fighi, ci siamo chiamati The Oaks, ah, sì. I falchi in inglese, perché volevamo fare, no? Ecco. No. Infatti incominciò il nostro declino, perché poi quando vuoi andare oltre a quello che fai. La musica che Biagio e la sua band suonano è semplicemente il rock. Uno dei problemi degli anni Ottanta è che vengono subito dopo gli anni 70, che musicalmente e soprattutto in ambito rock sono stati un decennio irripetibile. La band preferita di Biagio? I Genesis. Non c'è solo l'attività nella band, però. Biagio suona in giro anche come solista e sempre come solista incide qualche pezzo. Da 20 anni, 30 anni ho lavorato in cantiere e in studio. Nel frattempo facevo piano bar e chitarra, famosa chitarra bar, no? Nei locali di periferia, in Brera, Milano, sui Navigli. Lo facevo sia per guadagnare qualcosina in più, per arrotondare, sia perché avevo una passione propria. Ebbene, cantavo tutto il repertorio di Dalla, di Baglioni, di Fabio Concato, che era un artista che io amavo tantissimo. E ho bisogno di stancarmi e di camminare, di sentire l'acqua, il vento e di respirare. Peccato che qui vicino non c'è il mare. Antonacci nel frattempo presta servizio di leva nei Carabinieri. I primi brani vengono incisi nei ritagli di tempo e Biagio cerca di farli girare come meglio può. Poi giungono nelle mani di una persona che conta e che il talento lo sa riconoscere. È il primo magnifico destino di Biagio, Ron. Andavo a casa sua a suonare campanello, speravo sempre di vederlo perché portavo delle canzoni. Ah, proprio portavo. No, la verità è che io mi trovavo un carabiniere, perché lui faceva carabiniere. Allora mi trovavo questo carabiniere con la sua camionetta che mi veniva dietro dove andavo io. Poi mia madre ha detto ma insomma questo povero carabiniere perché non lo ricevi? Vogliamo ascoltare una canzone di questo povero carabiniere, tra l'altro Geometra. Sì. Sarebbe fantastico. Ma è grazie alla signora Maria che arrivò una cassetta a te, poi finalmente. Questa me la tengo, così. No, me questa la vendi. Adesso la tengo io, e la vendo io. Con la parola destino siamo soliti intendere qualcosa che capita, che accade quasi sempre indipendentemente dalla nostra volontà. Biagio il destino se lo va a cercare. Grazie alla sua determinazione e alla frequentazione degli ambienti che contano del settore discografico milanese, Biagio scopre la residenza di Ron, che nel 1987 è già affermato e famoso. Biagio invece ha 24 anni. Appena lo vidi, il modo in cui mi parlò, eccetera, capì che era uno, era già qualcuno, non era assolutamente uno qualunque. Era uno che comunicava, era uno che voleva arrivare e poi appunto mi disse che faceva il cantante, voleva cantare, eccetera, mi diede il suo biglietto da visita Geometra Biagio Antonacci e da lì insomma abbiamo cominciato a collaborare insieme. La collaborazione con Ron gli frutta il primo contratto discografico, per promuovere il quale Biagio viene spedito su uno dei palcoscenici più importanti che si possano immaginare, Sanremo. Si presenta per la prima volta a Sanremo e non soltanto, sì, e questa è la prima volta che Biagio fa una televisione. Capirete l'importanza di questa data, l'importanza di questo appuntamento. Come mai hai scelto proprio oggi Perché la televisione è più compromettente che ci sia durante tutto l'anno a Si parla di una bellissima emozione, devo dire che come inizio va fatta, ecco, quindi la televisione inizialmente dà una carica bellissima, quindi ci vuole. Dovevi rompere il ghiaccio. Esatto. Bene, Biagio Antonacci in Voglio vivere in un attimo. Sono cose che capitano. È il primo album di Biagio Antonacci, uscito il 12 giugno 1989 su etichetta Philips e prodotto dallo stesso Antonacci con Ron, Vince Tempera e Massimo Luca. Tutti i brani sono interamente scritti dallo stesso Biagio, ad eccezione di Voglio vivere in un attimo, il brano sanremese, scritto con Ron, e del pezzo che dà il titolo all'album, scritto e interpretato sempre con Ron. L'album ottiene scarso successo e l'unico brano che riesce a spiccare è Fiore, che successivamente Antonacci inserirà in diverse raccolte. Bagnami le gocce che si fermano sui petali, cadono e la terra si fa umida. Sei vivo per l'amore che mi dai. Adagio Biagio è il suo secondo album ed esce il 14 gennaio 1991, prodotto da Ron con Roberto Costa. Tutti i brani sono scritti interamente dallo stesso Biagio. Il titolo è ispirato a una canzone scritta nel 1927 e interpretata dal cantante Paolo Bernard, di cui Antonacci inserisce alcuni secondi come traccia di apertura. Biagio, adagio, andiamo adagio, piano andiamo, se no del mal passiamo. Come è avvenuto per l'album precedente, il disco non ottiene particolare successo, ma brani come Danza sul mio petto e Però ti amo entrano in rotazione presso alcune radio e il cantautore di Rozzano inizia a farsi notare dal pubblico. Ma neanche il secondo singolo oggi già. Quello se sbagli un singolo fai fatica a fare il secondo singolo, anche per andare solo su iTunes, capisci? Certo. Questo è il problema, cioè perché i tempi sono così veloci, cioè il successo deve essere... Cioè, ci hanno insegnato in questi anni che il successo è veloce, ma il successo non è veloce. Il fatto che Biagio Antonacci, dopo il relativo fallimento dei primi due album, sia tutt'altro che finito, non dipende solo dalla diversità dei tempi rispetto alla frenesia di oggi. Antonacci, infatti, è bravissimo a emergere come autore e mostra le sue indubbie capacità di scrittura sia dal punto di vista dei testi, sempre diretti, schietti, profondi, pur rimanendo semplici, sia dal punto di vista melodico, con una brillante fusione tra un'anima pop e un'anima rock. Beneficiano del suo songwriting artisti come Gli Stadio o Siria, o come Mietta, la quale nel 1992 ottiene grande successo con due brani di Biagio, Brivido di vita e Lasciamoci respirare. Anche Mia Martini fa scrivere una canzone a Biagio, Il fiume dei profumi, destinata a ottenere un successo importante. È il 1992. Biagio Antonacci ha 29 anni ed è conosciuto e apprezzato più dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico. Sa che l'album successivo sarà quello decisivo, quello di O la va o la spacca. Un nuovo magnifico destino, però, permetterà a Biagio Antonacci di esprimere definitivamente tutto il suo talento. I magnifici destini. Oggi ai magnifici destini Biagio Antonacci. La fatica dei suoi inizi nella provincia milanese, con i sogni coltivati nelle sale prova dell'Interland, la gavetta dura fatta continuando a lavorare in cantiere. Arrivano Sanremo, i primi album, l'incontro con Ron, ma il successo quello ancora no. Il nome Biagio se lo fa come autore, per Gli Stadio, per Mietta, per Mia Martini. La canzone giusta per se stesso arriva finalmente nel 1992. Sapevo che quell'album era l'ultimo album, perché ne avevo già fatti due, facevo il geometra anche, ed era l'album che mi poteva permettere di smettere di fare il geometra e di continuare a fare solo musicista. Quindi quella fu la canzone della libertà mia, liberatemi. Quando la scrissi all'ottavo piano di via Fiordalisi a Rozzano, di fronte alla tastiera avevo un muro bianco e lì venne fuori la folgorazione divina. La canzone che mi ha cambiato la vita. Liberatemi è una canzone pop rock incisiva, incalzante, al tempo stesso melodica e arrabbiata. Il testo si fa portavoce di un senso di ribellione un po' stereotipato, ma forse proprio per questo vincente, accattivante. Vincente e accattivante è anche l'arrangiamento del pezzo. E qui entra in gioco il secondo magnifico destino di Biagio Antonacci, il produttore e musicista Mauro Malavasi. Malavasi è uno dei più importanti produttori italiani. Classe 1957, vanta tra le altre una lunga e proficua collaborazione con Lucio Dalla. Nel 1992, colpito dalle prime prove di Antonacci, decide di investire su di lui e lo aiuta a trovare l'arrangiamento giusto per il singolo Liberatemi e per il successivo album. Il risultato viene pienamente centrato. La sentii in macchina, ero in un albergo, mi ricordo, stavo facendo Cantagiro allora, e dei ragazzi sotto l'albergo avevano questa canzone in una macchina altissima e la cantavano tutti. E lì ho capito che era accaduto qualcosa, cioè che finalmente la mia canzone era entrata nella macchina, così come erano entrate canzoni nella mia macchina ai tempi, quando io cantavo canzoni dei Police. Malavasi firma il singolo insieme ad Antonacci. Il brano vende 150.000 copie e permette a Biagio di spopolare al Cantagiro e poi al Festival Bar. Biagio si costruisce anche un'immagine precisa e riconoscibile per la sua dimensione live. Capelli lunghi e ricci, barba leggermente incolta, camicie bianche, larghe, neoclassiche. Girando l'Italia, Biagio trasforma Liberatemi in un tormentone e diventa uno degli artisti pop rock più amati del nostro paese. Nel 1993 Biagio Antonacci si riconcilia anche con il Festival di Sanremo, che lo aveva pressoché ignorato nel 1988, quando aveva partecipato nella categoria dei giovani. 5 anni dopo, Antonacci è nella categoria campioni. La sua esibizione è pulita, lineare, sicura. La canzone che porta in gara, Non so a chi credere, è un bel brano, efficace, orecchiabile, con cui Biagio arriva ottavo. No, no. Non so più a chi dare il tu, se vuoi vivere una vita così, basta dire sì, io dico no. Non so a chi credere viene inizialmente inserito nella ristampa di Liberatemi, operazione che rilancia ancora il disco della svolta di Biagio. Tra le altre cose, Liberatemi contiene anche un pezzo molto interessante che si intitola Almeno non tradirmi tu, scritta da Eros Ramazzotti, grande amico di Biagio. Biagio sicuramente è uno che scrive da Dio, cioè scrive delle gran belle canzoni, ha un piglio molto personale, soprattutto a livello testi è uno molto bravo. Molto personale, naturalmente ha fatto anche altri grandi successi per la Pausini, voglio dire, è uno che magari ha iniziato a fare un lavoro diverso, ma la sua strada era la musica, per cui grande rispetto e stima. Adesso che non ho la donna neanche io, stasera andiamo fuori amico mio, un impegno tu che impegno hai? E dimmi dove vai. E spero che tu sia sincero con me. Io credo che tu sia sincero con me. Biagio è anche un grande appassionato di calcio. Grande tifoso interista e anche un discreto attaccante. La sua esplosione negli anni 90, unita alle sue discrete doti atletiche, lo fa diventare un punto fermo nella formazione della Nazionale Italiana Cantanti, capitanata dal veterano Gianni Morandi, con cui Biagio partecipa a importanti manifestazioni con scopi benefici e di solidarietà. L'incontro con Morandi, tra l'altro, porterà Antonacci in una cascata di destini incrociati a conoscere Marianna, figlia di Gianni Morandi, futura sposa di Biagio e fonte di ispirazione per molti suoi testi, anche dopo la fine della storia d'amore. Vedi, anche il calcio un po' ha perso un po' lo smalto il calcio oggi, perché è diventato troppo... è diventata una macchina talmente bella e talmente lucida che fai fatica a guardarla, ha troppi riflessi. Grazie all'esperienza con la nazionale, Biagio conosce Don Pierino Gelmini e viene a contatto con il suo impegno nei confronti del recupero di giovani emarginati. Il cantante si dimostra molto attento e concreto rispetto alle iniziative di solidarietà che contano e si mette in gioco attivamente in quelle relative alla comunità. Il disco successivo esce nel 1994 e porta il nome semplice Biagio Antonacci. Nella squadra c'è ancora Mauro Malavasi. Il disco arriverà a vendere oltre 300.000 copie e i brani Non è mai stato subito e Se io e lei confermano, qualora ce ne fosse stato bisogno, la sensibilità e la grande vena poetica di cui il cantante è dotato. Lascia che sia una favola mia, se credi che le mie parole fanno solo rumore, rumore, rumore. La vita è bella e unica, la devi riconoscere. Da quei primi album di successo ad oggi, Biagio non si è più fermato. Anzi, ha consolidato album dopo album la sua posizione all'interno del music business italiano. Certo, forse la sua vena rock si è stemperata e ha preso maggiore spazio quella sentimentale, ma soprattutto le sue qualità di scrittura non sono mai venute meno. A riprova di ciò, nel 2000 Biagio riceve il prestigioso premio Lunezia, riconoscimento che va ai brani che mostrano particolari meriti letterari. Biagio lo vince col brano Le cose che hai amato di più, un pezzo che effettivamente ha una prospettiva molto originale sui ricordi e la perdita dell'amore. Il premio è accompagnato da una motivazione. Biagio fa la rivoluzione con i sentimenti e ci insegna che il passato non deve mai fermarci, che la memoria, i ricordi sono soltanto un punto di partenza. Non c'è retorica nelle sue parole, ma solo la grande lezione dei cantautori che parlano d'amore, come Gino Paoli e Luigi Tenco, del quale Antonacci può ereditare lo spirito libero. Quando non hai voglia di parlare, certe volte capita, non ti va di fare più domande, perché conosci le risposte. I magnifici destini. Non vivo più senza te, anche se una signora per bene ignora le mie lacrime. Oggi ai Magnifici Destini abbiamo raccontato l'ascesa di Biagio Antonacci, ragazzo della periferia milanese che all'inizio degli anni 90, con grande ostinazione, riesce a salire alla ribalta del grande pubblico. Oggi, a 20 anni esatti dalla sua esplosione, Antonacci resta uno dei cantautori italiani più amati e apprezzati in assoluto. No, signora, no, mi piace. No, signora, no, mi piace. No, signora. Come abbiamo già potuto raccontarvi, Antonacci, nel corso degli anni, si costruisce non solo una solida fama di cantautore e performer, ma si fa anche un nome importante come autore di canzoni che vengono interpretate da altri artisti, come per esempio Per lei, cantata dagli Stadio. Ma come si fa ad essere uomini per metà? Sempre dietro a quello che vuole, pensa, fa. Questo aspetto, insieme a un umile basso profilo, mai un capriccio da star, mai una frase fuori posto, fa sì che Biagio abbia conservato nel corso degli anni di carriera un rapporto molto forte con tantissimi altri artisti del panorama della musica pop italiana. Sentiamo a proposito Jovanotti. Biagio, io conosco Biagio da tanti anni, tantissimi anni, lo conoscevo quando aveva ancora i capelli che gli scendevano lungo le spalle, un po' da indiano metropolitano, ci conoscevamo bene, ci si vedeva la sera in un chiosco davanti alla Rai a Corso Sempione a Milano, mi ricordo ci facciamo sentire a vicenda, ci facciamo ascoltare i provini dei nostri dischi, io avevo in mano Lorenzo 94, quindi Serenata Rap, quel periodo lì, e lui mi fece sentire il disco dove c'era dentro Liberatemi. Ed ecco il parere di Tiziano Ferro. La caratteristica principale di Biagio, oltre ad avere una voce unica che arriva alla gente ed è inconfondibile, perché Biagio quando lo ascolti dalla prima nota non ti sbagli, è lui. Penso sia proprio la capacità di parlare alle persone e soprattutto, e in questo mi sento molto vicino a lui, il fatto di non avere vergogna nel farlo. Anche Gianluca Grignani ha un debito di riconoscenza nei confronti del nostro protagonista. C'è un pezzo di Biagio che è Liberatemi. Quel pezzo lì io, da quando ero ragazzo, che non avevo ancora iniziato, lo ascoltavo, mi piaceva molto. E avevo proprio visto in lui quella scelta che poi dopo lui ha cambiato e ha fatto in maniera... Fra gli artisti con cui Biagio ha mantenuto il rapporto più solido, Laura Pausini, di cui è un grande amico. La loro amicizia nasce nel 1993 a Sanremo, come racconta la stessa cantante. Ed è stato il primo cantante che durante il Festival di Sanremo, il mio primo Festival di Sanremo nel 93, mi ha fatto dei complimenti. Esattamente era, penso, la penultima sera del festival e mi è arrivato un telegramma con scritto "Sei la più brava", firmato Biagio Antonacci. Io avevo 18 anni ed ero ovviamente una sua fan e non potevo credere che davvero un artista come lui avesse avuto anche il tempo solo di pensare e di scrivermi un telegramma. Non posso più sentirmi stanco di aspettare. Nel 2005, però, accade qualcosa di diverso da queste collaborazioni, diciamo, convenzionali. Un giovane artista che arranca nell'underground, come aveva fatto Biagio, di nome Simone Cristicchi, scrive un pezzo. Si intitola "Vorrei cantare come Biagio Antonacci". La canzone, che potrebbe sembrare ironica e allegra, in realtà è stata concepita dal suo autore come un testo triste. È stata scritta infatti in un momento di sconforto, quando Cristicchi era convinto che non sarebbe mai diventato famoso ed era pervaso dall'amarezza di una situazione in cui era stimato dai colleghi cantautori e dagli addetti ai lavori, ma ignorato completamente dal pubblico. Vorrei cantare come Biagio Antonacci, vorrei pesare come Biagio Antonacci, firmare autografi alle fan, riempire parasport e fare quel che fa Biagio Antonacci. Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci, vorrei convivere con Biagio Antonacci, se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison con Rambo Rocchi, adesso è solo Biagio Antonacci. Fatto sta che Biagio, incuriosito da quel ragazzo riccio che vorrebbe assomigliare a lui, che chiede nel pezzo di ricambiare la cortesia, che vorrebbe suonare al Pala Lottomatica, si muove e decide di dargli una mano. Agevola la pubblicazione del brano e se lo porta dietro davvero al Pala Lottomatica a fare da spalla a un suo concerto. Ha cantato un sogno, anche Simone ha cantato un sogno. Sì. Voleva... Lo conosci. Sì, come l'ho conosciuto prima, ancora che uscisse la canzone, perché mi ha chiesto il permesso, no? Essendoci nella canzone dei brani, delle citazioni dei brani miei. Certo. Io l'ho fatto cantare con me al Pala Lottomatica e è andato al Festival di Verona, quindi... In 3 mesi ha fatto quello che ho fatto io in 10 anni. Quindi. Sono ancora molti i fan che vorrebbero essere come Biagio Antonacci e che lo rendono a 20 anni dall'esplosione uno degli artisti più amati del pop italiano. Prova ne è che il suo ultimo disco, Sapessi dire no, uscito ad aprile 2012, ha in pochi mesi ottenuto un disco di platino. Ho sentito profumi che portano nausea, ho cercato calore da chi non ne aveva. Ho pregato la notte col sole finivo, sono stato un disastro per chi mi ha creduto. Tu mi hai preso la mano e mi hai detto proviamo, cosa abbiamo da perdere, tutto già scritto. Io ti ascolto sognare, io sono nel sogno, è per questo che adesso ti dedico tutto. Ti dedico tutto.